Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Quando l'ho conosciuto a Parigi, 30 anni dopo, a Edouard piaceva dire che il padre era un cechista, perché sapeva di provocare l'imbarazzo generale. Si godeva l'effetto delle sue parole e poi ci prendeva in giro. Piantatela di farvi un fil dell'orrore. Mio padre era l'equivalente di un gendarme, tutto qua. Davvero? Subito dopo la rivoluzione, durante la guerra civile, Trotsky fu costretto a incorporare nell'Armata Rossa, allora sotto il suo comando, elementi provenienti dall'esercito imperiale, militari di carriera, esperti di armi, ma esperti borghesi, e in quanto tali poco affidabili. Creò allora un corpo di commissari politici per tenerli sotto controllo, controfirmarne gli ordini ed eliminare i recalcitranti. Nacque così il principio della doppia amministrazione, basato sull'idea che per eseguire un compito fossero necessari almeno due uomini, colui che lo eseguiva e colui che si assicurava che l'esecutore rispettasse i principi marxisti-leninisti. Dall'Armata Rossa il criterio si estese a tutta la società e ci si accorse poi che c'era bisogno di un terzo uomo per sorvegliare il secondo, di un quarto per sorvegliare il terzo e così via. Veniamin Sabienka è solo un piccolo ingranaggio di questo sistema paranoico. Il suo lavoro consiste nel sorvegliare, controllare e riferire, il che non comporta necessariamente orribili azioni repressive. Su questo Edouard ha ragione. Abbiamo visto che durante la guerra Veniamin è stato un soldato semplice dell'NKVD e ha trascorso quegli anni piantonando una fabbrica. In tempo di pace, promosso al modesto grado di sottotenente, ricopre l'incarico di Administrator Nachtkluba, che potremmo tradurre con gestore di locale notturno, ma che nel contesto in cui si muove Beniamin significa animare il tempo libero e la vita culturale del soldato, per esempio allestendo serate danzanti in occasione del giorno dell'Armata Rossa. È un incarico adatto a lui che suona la chitarra, ama cantare, a suo modo ha gusto per le cose raffinate e si vernicia persino le unghie di smalto trasparente. Un vero dandy, il sottotenente Sabienka, che avrebbe potuto, sostiene retrospettivamente il figlio, vivere un'esistenza più interessante se solo avesse avuto il coraggio di scrollarsi di dosso la rigida autorità di Raissa. Il night clubbing in versione NKVD è per Veniamin un periodo di relativa spensieratezza che purtroppo non dura a lungo, perché il sottotenente si fa soffiare il posto da un certo capitano Lievitin, che diviene a sua insaputa il nemico giurato dei Sabienka e una figura capitale nella personale mitologia di Edouard. L'intrigante che lavora meno bene, ma ha più successo di voi, e vi umilia con la sua sfrontatezza e la sua sfacciata buona sorte, e vi umilia non soltanto davanti ai vostri superiori, ma anche, cosa molto più grave, davanti alla vostra famiglia, così che vostro figlio, pur coltivando lealmente il disprezzo dei genitori nei riguardi di Lievitin, non può, per quanto se lo rimproveri, impedirsi di pensare segretamente che il padre sia un poveraccio, uno sfigato, e che il figlio di Lievitin sia comunque un ragazzo fortunato. Edouard elaborerà in seguito la teoria secondo cui tutti noi abbiamo il nostro capitano Lievitin. Il suo farà presto la comparsa in questo libro, nelle sembianze del poeta Iosif Brodsky. Quando muore Stalin, il 5 marzo 1953, Edouard ha 10 anni. I suoi genitori, al pari dei loro coetanei, hanno passato tutta la vita nella sua ombra. Stalin aveva la risposta a qualsiasi domanda, una risposta burbera e laconica che fugava ogni dubbio. Gli adulti ricordano i giorni tremendi e luttuosi seguiti all'attacco tedesco del 1941 e anche il giorno in cui, uscendo dal suo stato di prostrazione, Stalin aveva parlato alla radio. Si era rivolto agli uomini e alle donne del suo paese chiamandoli non compagni, ma fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Quelle parole così semplici e familiari, quelle parole di cui tutti avevano dimenticato il calore e che nell'immane tragedia erano un balsamo per l'anima, erano state importanti per i russi come per noi quelle di Churchill e di De Gaulle. Adesso il paese intero è in lutto per la morte dell'uomo che le ha pronunciate. A scuola i bambini piangono perché non possono dare la propria vita per prolungare quella di Stalin. Edouard piange come gli altri. Thank you. quegli anni è un bravo ragazzino, sensibile e un po' gracile. Chiama il padre, teme la madre e dà loro molte soddisfazioni. Rappresentante del Soviet dei pionieri nella sua classe, figura ogni anno nell'elenco dei migliori allievi, come si addice al figlio di un ufficiale. Legge molto. I suoi autori preferiti sono Alexandre Dumas e Jules Verne, entrambi molto popolari in Unione Sovietica. Sotto questo aspetto, la sua infanzia assomiglia alla mia, pur così diversa. Anch'io ho avuto per modelli i Tre Moschettieri e il Conte di Montecristo. Anch'io ho sognato di diventare cacciatore di pelli, esploratore, marinaio, più precisamente ramponiere, come il Ned Land, interpretato da Kirk Douglas nel film tratto da 20.000 leghe sotto i mari. I pettorali scolpiti sotto la maglia a righe, tatuato, beffardo, imperturbabile. Ned Land sovrastava con la propria prestanza fisica il professor Aronnax e persino il tenebroso capitano Nemo. Era facile identificarsi con questi tre personaggi: lo scienziato, il ribelle, l'uomo d'azione che era anche un uomo del popolo. E se fosse dipeso soltanto da me, avrei voluto essere quest'ultimo, ma non dipendeva soltanto da me. I miei genitori mi hanno presto fatto capire che no, ramponiere non sarebbe stato possibile. Era meglio fare lo scienziato. Non ricordo che all'epoca sia stata presa in considerazione la terza possibilità, quella del ribelle. Anche perché ero molto miope. Provateci ad arpionare le balene con gli occhiali. Ho dovuto portarli dall'età di 8 anni. Anche Edward. Ma lui ne ha patito più di me. Perché questo handicap non gli precludeva una carriera utopica, ma quella a cui era naturalmente destinato. L'oculista che lo ha visitato ha lasciato poche speranze ai suoi genitori. Con una vista così scarsa, il figlio sarebbe stato quasi certamente riformato. Questa diagnosi per lui è una tragedia. Edward ha sempre pensato che avrebbe fatto l'ufficiale. E ora gli dicono che non presterà nemmeno servizio militare, che è condannato a diventare ciò che sin dalla più tenera età gli hanno insegnato a disprezzare: un civile. Forse lo sarebbe diventato se il palazzo in cui abitavano gli ufficiali dell'NKVD non fosse stato demolito, i suoi inquilini separati e ai Savienka non fosse stato assegnato un alloggio nel nuovo agglomerato di Saltov, all'estrema periferia di Kharkov. Saltov significa strade che si intersecano ad angolo retto, non asfaltate per mancanza di tempo o di mezzi, e cubi di calcestruzzo a 4 piani appena costruiti e già fatiscenti, nei quali vivono gli operai di 3 fabbriche chiamate Turbina, Pistone e Falce Martello. Siamo in Unione Sovietica, dove in linea di principio non è squalificante essere proletari, ma a Saltov gli uomini sono per la maggior parte alcolizzati e analfabeti. I loro figli in genere abbandonano la scuola a 15 anni per lavorare in fabbrica o più spesso per stare in strada, ubriacarsi e a menare le mani. E non si capisce perché, pur nella società senza classi, i Savienka dovrebbero prendere quell'esilio per qualcosa di diverso da un declassamento. Sin dal primo giorno Raissa rimpiange amaramente Via dell'Armata Rossa. La comunità di ufficiali orgogliosi di appartenere alla stessa casta. I libri che ci si prestava a vicenda, le serate in cui i mariti con la giacca della divisa sbottonata sulla camicia bianca facevano ballare le giovani mogli sulle note di dischi di foxtrot di tango confiscati in Germania. Raissa sommerge Beniamin di rimproveri. Gli porta a esempio colleghi più svegli che, mentre lui passava faticosamente dal grado di sottotenente a quello di tenente, sono saliti di 3 gradi e hanno ottenuto appartamenti veri in centro città, quando invece loro devono accontentarsi di una stanza per 3 in quell'orribile periferia dove nessuno legge o balla il foxtrot, una donna distinta non ha nessuno con cui parlare e dopo ogni pioggia le strade traboccano di fango nerastro. Non si spinge fino a sostenere che avrebbe fatto meglio a sposare il capitano Lievitin, ma decisamente lo pensa. E il piccolo Edouard, che ha tanto ammirato il padre, i suoi stivali, la sua divisa e la sua pistola, comincia a provarne pena, a trovarlo onesto e un po' stupido. I suoi nuovi amici non sono figli di ufficiali, ma di proletari. E quelli che gli vanno più a genio non vogliono diventare proletari come i genitori, ma delinquenti. È una carriera che, come quella militare, ha un suo codice di comportamento, suoi valori, una sua morale, tutte cose che attraggono Edward. Non vuole più diventare come suo padre. Non sa che farsene di una vita onesta e un po' stupida. vuole una vita libera e pericolosa, una vita da uomo. Compie un decisivo passo avanti su questa strada il giorno in cui si azzuffa con un compagno di scuola, un grosso siberiano di nome Yura. In realtà non fa botte con Yura, ma è Yura che gliele suona di santa ragione. Lo portano a casa intontito e pieno di ecchimosi. Fedele ai propri principi di stoicismo militare, la madre non lo consola, non lo coccola, ma dà ragione a Yura. Ed è un bene che sia così, ritiene oggi Edouard, perché quel giorno la sua vita cambia. Edouard capisce allora una cosa fondamentale, ossia che ci sono due categorie di persone, quelle che si possono picchiare e quelle che non si possono picchiare, non perché siano più forti o meglio allenate, ma perché sono pronte ad uccidere. E questo è il segreto, l'unico. E il bravo piccolo Edouard decide di passare nella seconda categoria. Sarà un uomo che nessuno colpisce, perché tutti sanno che è capace di uccidere. Da quando non è più amministrator Nakluba, Beniamin è spesso in missione e resta lontano da casa per diverse settimane. In che cosa consistano di preciso queste missioni non è chiaro. Edouard ha cominciato a vivere la sua vita e non se ne interessa molto, ma quando un giorno la madre gli dice che conta sulla sua presenza a cena perché il padre torna dalla Siberia, gli viene in mente di andargli incontro. Edouard arriva in anticipo, un'abitudine che non perderà mai. Aspetta, finalmente il treno Vladivostok-Kiev entra in stazione, i passeggeri scendono e si dirigono verso l'uscita. Edouard si è messo in un punto da cui non può sfuggirgli nessuno, ma il padre non si vede. Il ragazzo si informa, chiede conferma dell'orario del treno, nulla di più facile che sbagliarsi, dato che fra Vladivostok e Leningrado ci sono 11 fusi orari e in ogni stazione arrivi e partenze sono indicati con l'ora di Mosca. Ancora oggi tocca al passeggero calcolare la differenza fra i vari fusi. Deluso, gironzola sulle banchine, spostandosi da un marciapiede all'altro nel frastuono della stazione, riverberato dalle immense vetrate. Viene preso a male parole dalle vecchie comari, con fazzoletto in testa e stivaletti di feltro, che cercano di vendere ai passeggeri i loro secchi di cetrioli e mirtilli rossi. Attraversa i binari morti, raggiunge l'area riservata allo scarico merci e lì, in un angolo appartato della stazione, fra due convogli in sosta assiste a questa scena. Alcuni uomini in borghese, ammanettati e con l'espressione stravolta, scendono su un asse da un vagone merci e vengono spinti, senza tanti complimenti, su un camion nero privo di finestrini, da soldati in pastrano e con le baionette in canna. Comanda le operazioni un ufficiale, che ha una mano occupata da un fascio di fogli fissati con una pinza di metallo e l'altra posata sul fodero della pistola. Fa l'appello con voce brusca. Quell'ufficiale è suo padre. Edouard resta nascosto finché l'ultimo prigioniero è salito sul camion. Poi torna a casa in preda al turbamento e alla vergogna. Vergogna di che cosa? Non del fatto che il padre di Amanforte ha un mostruoso sistema repressivo. Edouard non ha nessuna idea di questo sistema. Non ha mai sentito la parola gulag. Sa che ci sono campi e prigioni in cui vengono rinchiusi delinquenti e non ci trova nulla da ridire. Il fatto che egli stenta a capire e che spiega quel turbamento è che il suo sistema di valori sta cambiando. Quando era bambino c'erano da un lato i militari, dall'altro i borghesi e suo padre, anche se non aveva fatto la guerra in prima linea, meritava rispetto perché era un militare. Nel codice dei ragazzi di Saltov, che Edouard sta assimilando, da un lato ci sono i delinquenti, dall'altro gli sbirri. E ora, nel momento in cui sceglie il campo dei delinquenti, Edouard scopre che il padre non è un militare, ma piuttosto uno sbirro, e di infimo livello, un aguzzino, un piantone, un piccolo tutore dell'ordine. La scena ha un piccolo seguito notturno. Nell'unica stanza in cui la famiglia vive, il letto del ragazzo è ai piedi di quello dei genitori. Edouard non ricorda di averli mai sentiti fare l'amore, ma ricorda una loro conversazione sottovoce quando lo credevano addormentato. Depresso, Beniamin racconta a Raisa che invece di accompagnare come al solito i condannati dall'Ucraina in Siberia, ha scortato in senso opposto un contingente intero destinato alla fucilazione. Questa alternanza è stata introdotta per non abbattere troppo il morale delle guardie del campo. Tutti i condannati a morte dell'Unione Sovietica vengono fucilati un anno in una prigione, l'anno dopo in un'altra. Ho cercato inutilmente traccia di questa improbabile consuetudine nei libri sui gulag, ma anche se Eduardo avesse frainteso le parole del padre, una cosa è certa. Gli uomini che Beniamin faceva uscire dal vagone, chiamandoli per nome e spuntandoli sulla sua lista, salivano sul camion per andare incontro alla morte. Uno in particolare, racconta ancora l'uomo alla moglie, lo ha colpito. La sua pratica portava il codice che corrisponde a soggetto estremamente pericoloso. Era un giovane sempre tranquillo ed educato, che parlava un russo elegante e sia in cella che nel vagone merci trovava modo di fare ginnastica ogni giorno. Agli occhi di Eduard, quel condannato a morte stoico e distinto diventa un eroe. Il ragazzo comincia a sognare di essere un giorno come lui, di finire anche lui in prigione e farsi rispettare. Non soltanto da quei poveri diavoli di sbirri sottopagati come suo padre, ma anche dalle donne, dai delinquenti, dai veri uomini e, come tutto ciò che ha sognato di fare da piccolo, ci riuscirà. Ovunque vada, è il più giovane, il più piccolo, l'unico con gli occhiali, ma ha sempre in tasca un coltello a serramanico, dotato di una lama che misura un po' più del palmo della mano, la distanza tra il petto e il cuore. E questo significa che quel coltello può uccidere. Inoltre ha imparato a bere. Non glielo ha insegnato il padre, ma un vicino, ex prigioniero di guerra. In realtà, dice il prigioniero di guerra, a bere non si impara. Bisogna essere nati con un fegato d'acciaio, e questo è il caso di Eduard. Tuttavia, ci sono alcuni trucchi. Ingoiare un bicchierino di olio per ungere le budella prima di una bevuta. L'hanno insegnato anche a me. Mia madre lo aveva saputo da un vecchio prete siberiano. Ed evitare di mangiare e bere contemporaneamente. A me hanno insegnato il contrario, quindi riferisco il consiglio con beneficio d'inventario. Forte delle sue qualità innate e di questa tecnica, Eduard può scolarsi un litro di vodka all'ora, al ritmo di un grosso bicchiere da un quarto ogni 15 minuti. Questa dote sociale gli permette di stupire persino gli azzeri che arrivano da Baku per vendere arance al mercato e di vincere qualche scommessa che gli porta in tasca un po' di spiccioli. Gli permette inoltre di reggere quelle maratone di ubriacatura che i russi chiamano Zapoi. Zapoi è una cosa seria. Non la sbronza di una sera che, come da noi, lascia soltanto un cerchio alla testa il giorno dopo. Zapoi vuol dire restare ubriachi per parecchi giorni, senza smaltire la sbornia. Vagare da un posto all'altro. Salire su treni che non si sa dove vanno. Confidare i segreti più intimi a persone incontrate per caso. Dimenticare tutto ciò che si è detto e fatto, una specie di trip. Accade così che una notte Eduard e il suo migliore amico Kostya, che hanno cominciato a darci dentro con l'alcol e si trovano a corto di rifornimenti, decidano di svaligiare un negozio di alimentari. A 14 anni Kostya, soprannominato il gatto, è già stato in un carcere minorile per rapina a mano armata. Dall'alto della sua esperienza, insegna all'allievo Eduard la regola aurea dello scassinatore. Agisci con coraggio e decisione, senza aspettare che ci siano tutte le condizioni ideali, perché le condizioni ideali non esistono. I due danno una rapida occhiata a destra e a sinistra per sincerarsi che non ci sia nessuno in giro. Arrotolano il giubbotto intorno alla mano chiusa a pugno, con un colpo secco spaccano la finestra dello scantinato e oplà, sono dentro. Il luogo è buio. Di accendere la luce non se ne parla. I due razziano tutte le bottiglie di vodka che possono stare negli zaini, poi forzano il registratore di cassa. Soltanto 20 rubli, una vera miseria. Nell'ufficio del direttore c'è una cassaforte, ma provate voi ad aprire una cassaforte con un coltello. Kostya comunque ci prova. E mentre l'amico armeggia, Eduard cerca se c'è altro da rubare. Sull'attaccapanni dietro la porta vede un cappotto con il collo di Astrakhan. Ma sì, lo può rivendere. In fondo a un cassetto, una bottiglia quasi piena di cognac armeno, sicuramente la scorta personale del direttore, e a quei proletari dei suoi clienti non vende questo tipo di alcolici. Nella personale sociologia di Edouard, i commercianti sono tutti farabutti, ma bisogna ammettere che hanno buon gusto. A un tratto, voci e rumore di passi vicinissimi. La paura gli strizza le budella. Edouard si abbassa i calzoni, si accovaccia sollevando le falde del soprabito rubato e lascia andare uno schizzo di merda liquida. Falso allarme. Poco dopo, usciti da dove sono entrati, i due ragazzi si fermano in una di quelle tristi aree giochi che tanto piacciono ai progettisti di città operaie. Seduti sulla sabbia sporca e umida, ai piedi di uno scivolo così arrugginito che i genitori evitano di farci salire i figli per paura che si prendano il tetano, si scolano a canna la bottiglia di cognac. E Edouard, superata un'iniziale vergogna, finisce per vantarsi di avere cacato nell'ufficio del direttore. «Scommetto», dice Kostya, «che quella carogna approfitterà del furto per denunciare come denaro rubato anche quello che si è messo in tasca lui». Più tardi vanno a casa di Kostya. La madre di questi, vedova di guerra, si lamenta e protesta quando i due si chiudono in camera per continuare a bere. «Sta zitta, vecchia cagna», risponde con eleganza il figlio da dietro la porta. «Se no il mio amico Ed viene fuori e te lo mette nel culo». Dopo aver bevuto tutta la notte, i due ragazzi portano le bottiglie superstiti da Slava, che da quando i genitori sono stati mandati in un campo di lavoro per reati economici, vive con il nonno in una catapecchia in riva al fiume. Oltre a Edouard e Kostya, da Slava quel pomeriggio c'è un tizio più grande, Garkun, che ha i denti di metallo, le braccia tatuate, parla poco e, dichiara Slava orgoglioso, ha trascorso metà dei suoi 30 anni nella Kalimà. I campi di lavoro della Kalimà, all'estremità orientale della Siberia, sono considerati i più duri di tutti e agli occhi dei ragazzi averci scontato 3 condanne a 5 anni è come essere 3 volte eroi dell'Unione Sovietica. Rispetto. Le ore scorrono via lente a dire stronzate, ad allontanare con mano pigra le nubi di zanzare che a luglio svolazzano sopra il fiume in secca e a tracannare vodka tiepida accompagnata da pezzetti di lardo che Garkun taglia con il proprio coltello siberiano. Sono tutti e 4 ubriachi, ma hanno superato i saliscendi tipici della prima giornata di sbronza e raggiunto quello stato di ebetudine cupa e ostinata che consente allo Zapoi di tenere la sua velocità di crociera. Quando cala il buio, decidono di farsi un giro al parco di Krasnozavodsk, dove il sabato sera si ritrova la gioventù di Saltov. Lì non ci si può sbagliare, c'è sempre da menare le mani, proprio quello che in realtà stanno cercando Edouard e compagni. Tutto ha inizio sulla pista da ballo, all'aperto. Garkun invita una ragazza dai capelli rossi con grossi seni e l'abito a fiori, ma lei rifiuta perché Garkun puzza davvero troppo di alcol e somiglia a quello che è, uno zek, come vengono chiamati in russo i galeotti. Per mettersi in mostra davanti a Garkun, Edouard si avvicina alla ragazza, estrae il coltello e ne preme leggermente la punta sul suo seno. Cercando di assumere una voce d'adulto, le dice: «Conto fino a 3, e se al 3 non vai a ballare con il mio amico?» Un po' dopo, in un angolo buio del parco, Edouard e gli altri vengono aggrediti dagli amici della ragazza. All'arrivo della polizia, la rissa si trasforma in un fuggi-fuggi generale. Kostya e Slava riescono a scappare, ma gli sbirri acciuffano Edouard e Garkun. Li scaraventano a terra. Cominciano a prenderli a calci nelle costole e a schiacciare con metodo le loro mani. Schiacciare le mani serve a impedire che possano impugnare armi in futuro. Edouard agita il coltello alla cieca, lacera i pantaloni a un poliziotto ferendolo di striscio al polpaccio. Tutti gli altri poliziotti lo pestano fino a fargli perdere i sensi. Edouard rinviene in cella, nel puzzo caratteristico di tutte le stazioni di polizia del mondo. Ne conoscerà molte altre. Il commissario che lo interroga è un uomo sorprendentemente educato, ma non gli nasconde che l'aggressione a mano armata ai danni di un poliziotto gli sarebbe potuta costare la pena di morte se fosse stato maggiorenne, e siccome non lo è, gli costerà almeno 5 anni di colonia penale. Un'adolescenza dietro le sbarre avrebbe forse piegato Edouard riportandolo nei ranghi o sarebbe stata solo un altro episodio nella sua vita di avventuriero? In ogni caso il ragazzo evita la prigione, perché il commissario, quando sente il nome Savienka, inarca il sopracciglio e gli chiede se sia proprio il figlio del tenente Savienka, dell'NKVD. E siccome il tenente Savienka è un suo vecchio commilitone, il commissario mette a tacere la faccenda, insabbia il verbale sulla coltellata e invece di 5 anni Edouard si becca solo 2 settimane. In teoria dovrebbe passarle a raccogliere immondizia, ma è troppo malconcio per muoversi e così lo lasciano in cella con Garcun. Grazie all'ardore dimostrato, Edouard si è conquistato la fiducia del compagno, che diventa loquace e per 2 settimane lo delizia con storie della Calimà. Naturalmente Garcun ci è finito per reati comuni, altrimenti non se ne vanterebbe con ragazzi come Edouard e i suoi amici che, al contrario di noi, non hanno alcun rispetto per i prigionieri politici e, pur non conoscendone nessuno di persona, li ritengono intellettuali salcenti o cretini che si sono fatti sbattere dentro senza neanche sapere perché. I criminali invece sono degli eroi, soprattutto i membri di quella aristocrazia criminale nota come Vorive Zakonie, i ladri che obbediscono alla legge. A Saltov, dove imperversa la piccola delinquenza, non ce ne sono. E lo stesso Garcun non ha la pretesa di essere uno di loro. Però al campo ne ha conosciuti parecchi e non si stanca di raccontarne le imprese, mettendo sullo stesso piano e presentando come degni della stessa ammirazione gesti di coraggio pazzesco e atti di ferina crudeltà. A patto che si tratti di un criminale onesto, vale a dire rispettoso delle leggi del proprio gruppo, e che sappia uccidere e morire, Garcun considera un segno di ardimento e distinzione morale giocarsi a carte la vita di un compagno di baracca e, terminata la partita, sgozzarlo come un maiale o trascinarne un altro in un tentativo di evasione con il proposito di mangiarlo quando in mezzo alla taiga saranno esauriti i viveri. Edouard ascolta Garcun con rispetto, ne ammira i tatuaggi, si fa iniziare al loro significato misterioso, perché i malviventi russi e soprattutto quelli siberiani non si fanno tatuare una cosa qualsiasi in un qualsiasi punto del corpo. Le figure e la loro posizione designano un ben preciso livello nella gerarchia criminale e a mano che se ne scalano i gradini si acquisisce il diritto a coprirsi il corpo di tatuaggi. E guai allo sbruffone che usurpa tale diritto. Verrà scuoiato e con la sua pelle si faranno dei guanti. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.